Buongiorno principessa, io ti guardo e nemmeno te ne accorgi. In silenzio penso a tutti i nostri giorni. Non importa se tu non te li ricordi. Buongiorno principessa, io ti guardo sopra un letto d'ospedale, anche se mi sembri sopra una carrozza, d'improvviso tutto appare più speciale. Io sono solo un principe che cerca l'amore, e tu solo una volpe da domesticare. Ma se mi prendo cura di te, ti prendi cura di me, nessuno un giorno ci potrà separare. Buongiorno principessa, anche oggi alla radio passa Dalla. Chissà se Marco stringe ancora la sua Anna, oppure adesso è solo e guarda il mare, il mare, il mare. Buongiorno principessa, dai che in fondo sai la vita è bella. Leggera come l'aria è la mia incertezza. Dipingerti in un muro, dipingere il futuro. Ti giuro a fianco a me sarai sempre al sicuro. Dalle accuse della gente non ti toccherà nessuno. E dopo la tempesta giuro tornerai sereno, perché solo grazie a te che vedo meraviglie. Anche dentro un giorno triste. Buongiorno principessa.